Friuli nel mondo, 143esima trasmissione dedicata agli emigrati. Festival della canzone friulana. Nel magnifico parco della Villa Giacomelli di Pradamano, ambiente suggestivo, grazioso e poetico, con un palco trasformato in un mare di mille fiori, si è svolto il sesto festival con canzoni ricche di passione e sincerità in uno spirito genuino e semplice di casa nostra. Il poeta Aurelio Cantoni così si esprime a proposito del festival. A Pradamano si sta ormai da anni sperimentando un nuovo genere di canto friulano che dovrebbe succedere alla ciante antica o villotte. Si tratta di un tentativo che merita la più attenta considerazione, poiché si inserisce nel contesto della friulanità nuova di questo dopoguerra, la quale ha trovato, principalmente nella produzione letteraria, un abbrivio piuttosto vigoroso e convincente. Con l'Orchestra Friulana della Canzone, ascoltate dalla voce di Ennio Grion, Serenade Partè, di Pina Carminati e Beppino Lodolo. Serenate, io la canti sol per te, o me piele innamorate, che al balcon tu sei per me, si distudensi la lune, parla sa di indormiti, e gli steli si nasquindi, anche lor van a dormir. Sere d'amor no sta più in fini, a noi dal sire cantai così, la più biele serenade io la canti sol per te, o me biele innamorate, che tu veis per me. Lucia Scozzero e Sandrino Cimiotti ascoltate Tic Tic Tic dell'interpretazione di Edda Pinzani e Albionte Tessarin. Quanca al pluf c'è gust la vie sot l'ombrene du ci doi. Sinti donce lame frute, ci si cai, lus dai miei voi. Tic, tic, tic, li sgoti scianting. Tic, tic, tic, i sieta cus. E cui pis dentri li sporci, sorridin, come due frusti, tic tic, li sgoti scianti. Alba fuarti il nestricù. Io ti brami, io ti adori, busse, busse, calescù. Sot che il cil di serenere simborece anche l'amor. E par soli con vignube mi fa bene un calor. Tic, tic, tic, li scotti scianti. Alba fuarti il nestricù. Io ti brami, io ti adori. Busse, busse, calescur. Busse, busse, busse, busse, calescur. Stefano Lopizzo canta Il Barelin di Ettore Kreighero e Pippo Sormani. Che m'ameren così, non potevi in sta vessura, tal curtilo mi fermavi, tu gli evari splancami, su di quarti ti menavi, la calere un barelì. Oh, c'è biel nini, sta sentare sul barelì, in tal scur con te visie, al passare ogni cantin, un sospiro ne bussare, l'aventinto un marinare, un lusor cula de strade, tutto intorno li difende, le passa che il tim di nire, non vin più il barelin, modus est la mia sposine, e ti sto sempre vicin, ornarin l'aiudeva, a ciri che il barelin, al calor del prime plane, al sicuro, no provarin. Le passate che il timpinine, no vin più il barelin, modus est la mia sposine, e ti sto sempre vicin. Tornarin l'aiude mai, a ciri che il barelin, ma il calor de prime plane, dal sicuro no provarin. O c'è bien, sta con te sul barelin. Amor di Soresere, di Renato Covasti e Giovanni Securo, viene cantata da Silva Balanza. Ieri è l'ora dall'amore, quanche ci s'incoloris, ieri è l'ora la pluibia. Tasi a far l'amore tra gli siarbi sprofumabis e c'è tanti se c'è ciardis bussaduti si sintadis e che pascu si serene. Ci dice serenade, nous han fat la compagnie, plus discrete, plus gli amie, si sentive odore di fen, si sentive a ciantai gris, perché il cillar si scurive, lontan sonave la vera. Sentive a cantare gris, perché il cillar si scurive, lontan sonave l'Ave Maria, lontan sonave l'Ave Maria. E infine Silva Balanza interpreta di Romano Donato la canzone vincitrice del festival, dal titolo Che Valade. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo a cura di Armette Pellizzari.